later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, la fabbrica di polli, l'esercito dei condannati non accenna a sfondirsi. Kappa e Drago prendono coscienza di una dura verità. Stiamo ingrassando, Drago, guardati. Ho capito, dici che stiamo ingrassando, poi guardi me. Cioè, dire, guardiamoci e poi copriti la pancia, perché non è proprio il caso di mostrare. Però è strano, scusa, abbiamo evitato per un pelo il reparto nutrizione forzata. Abbiamo anche digiunato qualche giorno. Ma è possibile? Continuiamo a mettere su chili. Vabbè, perché non facciamo sport, non facciamo niente. Ma per forza, dai. Le palestre qui sono piene di polli che fanno ginnastica per polli. Com'è la ginnastica per polli? Non esiste, infatti è per polli, no? In pratica tu paghi l'iscrizione annuale alla palestra e dopo un giorno, al massimo due, ti ammazzano. Però Kappa, io sono troppo pigro per far ginnastica e quindi sono regredito praticamente allo stato larvale. Guarda, non riesco a piegarmi. Mi viene un ictus. Infatti, l'acido lattico mi sgorga dappertutto, che sembra una puerpera ad altri tempi. Sai, quelle che immagini. Vabbè, così, l'acido lattico. Ma infatti non è più il tempo della ginnastica tradizionale. La gente è tutta come te. È tutta ma come sì, me. Nessuno ha tempo e voglia di faticare per essere in forma. Cosa credi, che tutti quelli che vedi in giro in perfetta forma, tutti asciutti così, siano così perché si sono fatti il mazzo? Beh, certo, è gente che ha voglia di fare, gente che si sacrifica, no? Ma no! Macchinari a ventose, tute per sudare, stimolatori elettrici, massaggiatori supersonici dalla forma equivoca, eserciti di geishe dalle mani fatate e lucide di unguenti balsamici, tapirula, ciclette che vanno da sole, sistemi di trazione sadomasochistici. Tutto meno la ginnastica vera. Sì, ho capito, ma qui in fabbrica esiste tutta questa roba? No, ma basta ordinarla e arriva. Con la carta di credito? Certo, bravo. Con la carta di credito. Ecco, fatto. Bravo! Hai appena comprato una massaggiatrice thailandese. Bravo! Ma Kappa, cosa hai ordinato? Dove sono le ciclette che vanno da sole, le ventose, i massaggiatori supersonici dalla forma equivoca? Drago, cominciamo dai massaggi e poi il resto si vedrà. Salve, sono il confessionale elettrico della Cappella di San Gallo. Che cosa faccio tutto il giorno qui nella Cappella di San Gallo? Me lo chiedo anche io a volte. La fede è quasi scomparsa dal cuore dei polli. Vanno sempre di fretta, come se la vita potesse finire da un momento all'altro. E nessuno pensa al sacramento della confessione. Eppure, ben prima della psicanalisi, la confessione ha esercitato un ruolo importantissimo nella sfera intima degli uomini. Invito tutti a smettere di andare dallo strizzacervelli e a inserire un gettone sagomato di difficile reperibilità nella mia apposita fessura di altrettanto difficile reperibilità. Potrete scaricare tutti i vostri sensi di colpa in una fredda macchina elettrica che vi assolverà seduta stante. Sfera! Fine del messaggio promozionale. Sfera! Sfera! Sfera! Sfera! La fabbrica di polli. E Allora, capo, io sono un po' impaziente. Quando arriva la massaggiatrice thailandese che hai ordinato via internet? L'ho ordinata io, l'ho pagata io, quindi stai calmo e quando arriva la vedremo. Vabbè, controlla un po' sul sito se c'è il tracking. Il tracking, sì, l'aggiornamento costante sugli spostamenti del bene ordinato, del collo. Non collo, le passeggiate in montagna. No, nemmeno quello. Però il collo, nel senso che il collo è anche tutto il resto di questa donna che hai ordinato. Allora, collo. Riesce a beccarla? No, è lento a trovare il server, non va. Magari non è online, controlla bene. Sì, sono online. Cosa è strano? Ma cosa? Error 404! Sì, sono Error 404! Il sito sul quale ho ordinato la massaggiatrice non esiste più! Maledizione! Appena è arrivato il numero della tua carta di credito, hanno oscurato il sito e tu sei rimasto fregato! Error 404! Sei di gran lunga il più fastidioso supereroe mai apparso sulla faccia della Terra! Lo so! È per quello che mi chiamo Error 404! Ehi tu, sbruffone! Questo è Mailer Demon. Sì, sono Mailer Demon e sono qui per riconsegnare la mail di conferma per l'acquisto della massaggiatrice. Quindi siete uno a uno. Infatti, anche io posso concorrere al premio quale supereroe più fastidioso del mondo. Maledetto, devo trovare il modo di bloccarti in origine. Devo tarparti le ali, ma vedrai che l'ora del mio trionfo è vicina. Taci, pezzo da museo. Io sono Mailer Demon. Il futuro è nelle mie mani. Però finisce sempre che si mettono a litigare tra loro e a noi non funziona più internet. Le mail ritornano indietro, i siti non esistono più. Bravo! La tua carta di credito è appena stata clonata. Mi dispiace, ma tu sei comunque... Bravo! La fabbrica di polli. Asciutta. Uguale asciutta. Ma sì, ma sta zitto, no? Stai un po' buono, Tarek, dai! Asciutta. Pasta asciutta? Sì, va bene. Hai capito che pasta asciutta vuol dire pasta asciutta. Ma non è che mi sembra sa gran cosa, no? Piuttosto, cerca di occuparti di cose serie. C'è ancora la questione dei quattro coccoletti brasiliani, quelli là, no? Che sono bloccati sulla nave, eh? E io come faccio? Coccoletti? Sì, quattro coccoletti, no? Quelli che sono malati di Douglas. Quelli devono venire qui, devono fare un concerto. E se io non riesco a sbloccare la situazione, l'amministratore delegato mi fa fuori, eh? Me l'ha detto anche in faccia quello lì, eh? Ascoltami bene, no cocoritos, no pollo in sbattimento. È chiaro il concetto? Mi sono spiegato bene? Cocoriti! Sì, cocoriti! Ma tu almeno lo sai cos'è il Douglas? Sì. No che non lo sai! È una malattia che hai sempre voglia episcopale. Tu sei praticamente sei sempre pronto episcopale. Episcopale? Sì, è una brutta malattia! Adesso quei quattro cocoriti là hanno tutti il Douglas. Prima ce l'aveva uno solo, adesso ce l'hanno tutti. Episcopale, sì, ma io come faccio a farli venire qua a quelli adesso? C'è il concerto, no? Ma tu dammi un'idea. Douglas, ho capito. Senti un po', però adesso che ti guardo, mi viene in mente una cosa. Se io e te ci travestiamo da cocoriti, tipo troviamo altri due, no? Tipo Capo e Drago, che sono sempre qua in giro. Ci travestiamo, l'amministratore non ci riconosce mica, eh? Secondo te? Allora, ci travestiamo, convinciamo gli altri due e poi facciamo il concerto, Ci travestiamo da cocoriti. Sì. E poi magari ci sono anche le groupies, Ma ti piacciono le groupies? Che passa scelta? Ma vada via il cuva. Che cosa succederà adesso? I quattro cocoriti attesi per il concerto verranno sostituiti da una super band composta da Al Pollo, da Tarek, da Kappa e da Drago? E se sì, quale sarà il risultato finale? Lo scoprirete solo sintonizzandovi da lunedì a venerdì a mezzanotte su Radio 3 per i prossimi irrisolvibili allestimenti de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen con Guido Bertolotti, Alberto Caserini,